Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Antico, ce ne siamo occupati tanto in questa trasmissione, il cibo che i nostri figli consumano a scuola. Tema antico e molto dibattuto, riesploso in queste settimane a Milano. Da una parte le famiglie, le rette sono state ritoccate e il cibo, dicono, è sempre più scadente. Peli, oggetti non ben identificati nei cibi, pasti freddi, menù sempre più improntati al risparmio. Dall'altra la Milano ristorazione, 75.000 pasti serviti ogni giorno. Cominciamo dunque dalle accuse. Rossella Mella, rappresentante dei genitori della scuola primaria Cesari, promotrice dello Schiscetta Day, è un termine milanese, una giornata di protesta in cui i bambini si sono portati il cestino da casa, un po' come si faceva una volta. Come genitore abbiamo riscontrato un peggioramento progressivo nella qualità del cibo, soprattutto nella qualità. Infatti si sono verificati questi casi di ritrovamento di peli nelle lasagne, lische di pesce nel pesce e tanti altri casi, adesso l'elenco sarebbe anche lungo. Comunque come Commissione Immensa abbiamo tutte queste segnalazioni che sono state fatte a Milano Ristorazione, man mano che questi disguidi, chiamiamoli, vengono riscontrati nelle mense. La cosa che ci lascia perplessi, soprattutto nel caso delle lasagne, per esempio, è che non è stato sospeso immediatamente il fornitore. Si sia preso tempo, quest'anno è stato sospeso e poi a quanto pare ha ripreso questo fornitore ancora il contratto con Milano Ristorazione, sono state fornite ancora delle lasagne in cui sono stati riscontrati degli stessi problemi. Mi parlava anche di generale deterioramento, insomma, della qualità. Che cosa, perché al di là dei casi specifici su cui magari chiederemo poi conto a Milano Ristorazione, però forse possono anche capitare su 75.000 pasti al giorno. Lei mi parlava invece di un decadimento più generale. Ecco, come mai? Per esempio, noi adesso la cosa che stiamo chiedendo, quello che vorremmo fosse tolto dal menù, per esempio, è tutto il tritato industriale, le polpette, gli hamburger, che peraltro non sono previsti nel contratto di Milano Ristorazione, non sono previsti che vengano serviti questi cibi, come non sono previste le lasagne, come non è prevista la pizza. Sono cibi che danno anche dei problemi, e come abbiamo visto con la pizza, l'anno scorso c'è stato il caso della pizza arrivata nei refettori bruciata. Sono cibi che danno dei problemi e non capiamo perché debbano continuare ad essere serviti. I bambini le lasciano nel piatto perché la pizza viene lasciata nel piatto. Capiamo che ci sono delle difficoltà oggettive a servire una pizza, prepararla al mattino presto, poi staziona nelle termiche, viene servita a mezzogiorno. Non può essere buona la pizza, anche se magari il materiale usato all'inizio Non è adatta buono. Ad una mensa scolastica. Non è adatta a una mensa scolastica la pizza, lasciamo stare, nessuno obbliga a servire determinati piatti. Milano Ristorazione dice... Su cui sì. Abbiamo visto un peggioramento, per esempio la qualità del gelato, ma anche il gelato non è previsto nel contratto, ci sarebbe il budino. Torniamo a dare il budino se col gelato abbiamo dei problemi. Cioè non capiamo veramente in base a che cosa vengono fatte determinate scelte e scelti determinati fornitori, tutto qua. Milano Ristorazione dice che di contro il cibo mangiato a scuola dai ragazzi è l'unico sicuramente controllato e sano mangiato in tutta la giornata. Un'accusa pesante anche nei confronti di noi genitori. Più che un'accusa pesante è una cosa offensiva. Io non mi permetterei mai di giudicare quello che le mamme danno da mangiare ai figli a casa loro. Milano Ristorazione ha una responsabilità verso i bambini per quello che compete il pranzo che viene fornito a mezzogiorno, e loro questo lo devono controllare e devono dare alimenti di qualità. Poi nelle famiglie ogni mamma è responsabile e sa cosa dà ai propri figli. Questo fatto di ergersi a giudizio dei genitori lo trovo veramente una cosa offensiva nei confronti di tanti genitori che si danno da fare per assicurare il meglio per i propri figli e per ottenere il meglio dal punto di vista della qualità e del cibo sano. Noi non abbiamo mai fatto rivendicazioni del tipo al bambino questo non piace, perché i bambini poi vanno educati a mangiare determinate cose, gli vanno proposte, l'importante è che la cosa che gli viene proposta sia una cosa di qualità, controllata e che serva effettivamente a educarli al cibo. Se gli diamo dei prodotti scarsi, di qualità scarsa, li roviniamo, non li educhiamo a mangiare bene, a crescere sani. Sentiamo cosa risponde a tutto ciò, peli e qualità scadente compresi. Cosa dice dunque il presidente di Milano Ristorazione, Michele Carruba? Dico che non è vero, perché tutto questo è assolutamente documentato e documentabile. Per quanto riguarda l'accusa che le mamme hanno recepito come un insulto, era invece una considerazione, nel senso che la frase doveva essere intesa come: è l'unico pasto sicuro perché studiato da nutrizionisti. Sfido chiunque a dire che in casa, in famiglia, si mangia dopo aver sottoposto il menù a un nutrizionista. Ma noi mamme siamo anche meglio di nutrizionisti, perché sappiamo in qualche modo di che cosa hanno bisogno i nostri figli. Però insomma, ho capito il senso della sua osservazione. In molti casi è così, ma non sempre, purtroppo non sempre. Con questo non volevo generalizzare e dire ha ragione, perché a volte incapaci. Per la fretta diamo ai nostri figli le cose che sappiamo mangino volentieri, senza stare andare troppo per il sottile. La fretta purtroppo fa brutti scherzi. Insomma, quindi secondo lei non è vero che state servendo cibi più scadenti rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni passati? Non è cambiato niente? Assolutamente no, anzi si è continuamente migliorato la qualità del cibo fornito. Ovviamente siamo in un momento particolare, c'è un'elezione in corso, ci sono gruppi di opinione che hanno interesse nello screditare determinate istituzioni, perché Milano Ristorazione non è un'azienda che fa lucro, ma è un'istituzione di servizio del Comune di Milano, e quindi in questi casi sempre quando ci sono queste occasioni qualcuno fomenta le mamme. E certo, è chiaro che una mamma che sta tranquilla e che qualcuno gli scrive dicendogli che il suo figlio mangia la carne maleodorante e marcia, e si preoccupa, giustamente, e ha ragione di preoccuparsi, però è falso. Esiste un sistema di controllo interno certificato ISO 9000 che prevede che tutto sia analizzato dalla materia prima che si ordina, che sia di prima qualità, e questo è scritto nei bandi gara, è sempre tutto di prima qualità, e poi esistono Milano Ristorazione è controllata ogni giorno dalle ASL, dai NAS, da dal Comune di Milano che ha degli ispettori. Quindi è chiaro che se ci fosse qualcosa che non va, queste cose sarebbero segnalate, perché la insomma il cuoio nelle lasagne di cui parlano alcune mamme, non è possibile, se ne sarebbero accorti in AS, insomma. Naturalmente, ma il cuoio nella lasagne, se vogliamo essere molto chiari, le lasagne non le facciamo noi. Noi cerchiamo di fare internamente tutto, ma le lasagne, che piacciono tantissimo ai bambini, il 75% dei bambini gradisce le lasagne, tant'è vero che in questi giorni ci arrivano lettere dei bambini che dicono: perché non ci date la lasagna? Allora il discorso è che nel procedimento industriale non esiste un mezzo, come per esempio può essere nel un qualsiasi corpo estraneo di metallo nel pane. Ci sono dei metal detector che ce lo dicono subito, quindi oggi non c'è un mezzo per poter verificare, per chiunque prepari delle lasagne industrialmente, se ci può finire dentro un pezzettino di cotenna con un pelo. Quindi questo rischio c'è, ma c'è non solo per le lasagne che compriamo noi, perché le lasagne che compriamo noi sono quelle che poi vengono vendute in tutti i supermercati d'Italia. Quindi insomma potrebbe capitare anche nel pacchettino che compriamo al supermercato. Ma naturalmente. Si parla anche di cose strane nelle polpette. Ma non ci sono cose strane nelle polpette, ognuno può inventarsi qualsiasi cosa. Pensi che l'elezione scorsa qualcuno ha scritto sui giornali: Milano Ristorazione cucina con l'olio di motore esausto. Quindi insomma lei si sente di dire che le mamme possono stare, le mamme, papà, insomma le famiglie possono stare tranquilli, magari arriverà qualche cibo freddo, quello potrà capitare, credo che capiti. Ma quello fa parte dell'errore umano. Lo so purtroppo anche per esperienza personale. Ma poi il concetto è che la ristorazione scolastica, Milano Ristorazione, non è un ristorante. Milano Ristorazione è una mensa scolastica. e la mensa scolastica deve seguire, ma perché questo l'hanno stabilito la scienza, l'hanno stabilito i medici, l'hanno stabilito l'esperienza di tanti anni, che deve essere fatta in una certa maniera. I bambini debbono imparare a mangiare un po' di tutto. In alcuni posti, come in Inghilterra qualche anno fa, che avevano avevano deregolamentato completamente le mense scolastiche, succedeva che poi ognuno gli dava patatine fritte e hamburger. Nel giro di 2 anni hanno dovuto fare marcia indietro perché c'è stato un picco di aumento di obesità nei bambini enorme. Quindi il concetto della mensa scolastica non è il concetto del ristorante dove si va a mangiare quello che ti piace. Il concetto della mensa scolastica è che il bambino deve imparare che l'alimentazione deve prevedere un po' di tutto e non solo quello che gli piace. È tutto. Per riascoltare questa puntata come tutte le altre potete andare su radio24.it. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 12.45.